Leggendo la prima lettura, Numeri capitolo 9, versetto dal 15 al 23, quindi sono ben 9 versetti, io vi devo dire che sono rimasto un pochettino perplesso per la ripetitività, che mi sembrava inutile. Ripete per 8-9 versetti. Quando la nube si fermava sopra la tenda, stop, l'accampamento degli israeliti doveva fermarsi. Quando la nube si alzava, ripartivano. Se stava lì solo una notte, si fermavano solo una notte. Immaginate che lavoro, montare, smontare un campo, seguire. Se si fermava 2 giorni, 2 notti, più giorni o più notti, stessa cosa. Io mentre leggevo dicevo, Signore, con tutto il rispetto, mi sembra una pagina noiosa, mi sembra una pagina ripetitiva. Però siccome sono abituato a guardare la parola di Dio con rispetto, anzi di più, con attenzione, studio, meditazione, mi sono chiesto, e se questa pagina avesse un insegnamento per la nostra vita? Non so, questa è la mia conclusione. Ho ricavato come due insegnamenti. Primo, il Signore ci guida. Mi ha sempre, e noi dobbiamo seguirlo. Mi ha sempre colpito una frase detta da una persona di Dio a un'assemblea di preti. C'erano lì 700 preti. Questa persona diceva, scusate, è vero che noi dobbiamo seguire Dio? E i preti e noi hanno detto sì. Ah, bene. Ripete per la seconda volta. Allora noi dobbiamo seguire Dio. Sì, risponde l'assemblea ancora all'unisono. Ma che per la terza volta questa persona ripete, allora noi dobbiamo seguire Dio e noi eravamo un po' disorientati, cioè mica siamo bambini, no? Ce lo ripeti per la terza volta. E allora noi diciamo sì, noi dobbiamo seguire Dio. E questa persona, con un lampo semplicissimo di genio, dice, ah, allora se noi dobbiamo seguire Dio, non dobbiamo precederlo. Che insegnamento, che insegnamento. Noi dobbiamo seguire Dio e non mai precederlo. E va di pari passo con un'altra frase bellissima che mi accompagna da tutta la vita, è l'obbedienza che salva il mondo. È l'obbedienza che è stata l'obbedienza di Gesù al Padre, è la mia obbedienza alla volontà di Dio che salva il mondo. Questo brano lo dimostra. Popolo di Israele che cosa ha fatto? Ha obbedito, si è fidato. Che grande insegnamento, amici. Quante volte noi scalpitiamo, noi anche ci arrabbiamo col Signore. Dai, Signore, allora, insomma, io poi devo solo inginocchiarmi davanti al Signore e chiedere perdono per la mia incapacità. Ma mi tocca predicare, mi tocca. Allora dico, Signore, aiutami a vivere quello che io insegno agli altri. Ma ditemi, quante volte di fronte a certe malattie che non finiscono più, noi ci lasciamo andare? Signore, o guariscimi o fammi morire. Oppure quante volte io taccio perché solo chi è dentro ha il diritto di parlare. Gente che ti dice: ma perché il Signore non mi fa morire? Cosa sto qui a fare? Sono qui a dar fastidio ai miei, sono qui solamente a occupare un posto. Ricordiamo, amici, questo episodio apparentemente banale, apparentemente ripetitivo. Ci si muove dall'accampamento, se il Signore ti fa muovere, si sta fermi un giorno, due giorni, anche una settimana, se il Signore ti dice di star fermo. È l'obbedienza che salva il mondo e noi dobbiamo seguire Dio, mai precederlo.